Ciao a tutti e a tutte. Quest'anno abbiamo deciso di riproporre un'iniziativa su Stante, costruita collettivamente. Le iniziative che ci saranno quest'anno in particolare sono venerdì 10 maggio alle 20, parleremo di poesia politica, non solo quella di Sante, ma anche quella di Pablo Neruda, Mahmoud Darwish, Roberto Vantaggiato e il collettivo R. Ci sarà anche una videotestimonianza del poeta Alfredo Allegri. Ci saranno anche delle letture dell'attore musicista Pierpaolo Capovilla, frontman della band Teatro degli Orrori. Alle 22 ci sarà un concerto del cantante e chitarrista salentino Gigi Cardigliano. Sabato 11 maggio, invece, la poesia invade la città, quindi a partire dalle 17:30 ci saranno musica, canti e letture che ci accompagneranno in un percorso della memoria. Dall'ex carcere di San Giovanni in Monte al carcere minorile del Pratello, passando per il sacrario dei partigiani in Piazza Nettuno. Seguirà una cena al Centro Sociale della Pace e il concerto della Banda Popolare dell'Emilia Rossa. Domenica 12 maggio, invece, alle 16 verrà presentato il documentario Morire al Sant'Anna, sulla strage seguita alla rivolta del carcere di Modena durante il Covid. Interverrà il Comitato Verità e Giustizia per i Morti del Sant'Anna. Infine presentiamo la recente ristampa per Lyrics Edizioni del libro di poesia di Sant'Enotar Nicola, Con questa anima inquieta, con l'editore Nino Cannatà, la soprano performer Maria Elena Romanazzi, l'attore Marcello Praier e il poeta Alberto Matala. Tutti gli eventi si terranno al Centro Sociale della Pace in via del Pratello 53 a Bologna. Perché leggere oggi Notar Nicola? Leggere oggi Notar Nicola perché Sante, attraverso il suo vissuto, le sue scelte e i suoi scritti, ci permette di attraversare tutta la storia di classe del secondo Novecento. Sante ha avuto una vita paradigmatica, diciamo, una vita proletaria paradigmatica. L'infanzia in orfanotrofio, l'emigrazione dal sud contadino alla metropoli del nord, la vita in quartiere, nel quartiere proletario di Torino, detta la barriera di Milano, il contatto con i partigiani e con il mito della resistenza tradita, l'impegno politico nel Partito Comunista, la rivolta dei ragazzi con le magliette a strisce di Piazza Statuto e l'insofferenza verso un partito che andava disconoscendo tutto ciò che si muoveva alla sua sinistra. Poi negli anni 60 i fatti noti della Banda Cavallero, nata per finanziare attraverso rapine in banca il movimento di liberazione algerino contro l'imperialismo francese. Poi ancora il carcere, dove Sante non si rassegnò a fare il prigioniero, ma si impegnò in una lunga lotta politica collettiva per i diritti dei detenuti, divenendo un'iconica avanguardia del movimento dei dannati della terra. La sua autobiografia, infatti, L'evasione impossibile, che uscì per Feltrinelli nel 72, è stato un libro culto per la generazione degli anni 70. Non solo questo, perché anche dopo il carcere c'è stato il Sante Oste al Pratello, quello che molti di noi hanno conosciuto, quando al Mutenie, per tutti noi era un porto sicuro per trovare accanto ad una birra un mondo da esplorare a partire dalla vicina Marzabotto, la necessità di conoscere e ricordare e di tenere salda la memoria. Lungo tutto questo percorso di vita di Sante, c'è stata la poesia. La poesia è stata uno strumento per evadere dal muro di cinta. È uno strumento che nasce da una persona sola, ma in realtà è uno strumento corale, collettivo, perché è stata l'istantanea di quelli che erano le condizioni e i sentimenti, le rivendicazioni e la rabbia del movimento dei dannati della terra, cioè dei detenuti, quel movimento di detenuti che si sviluppò lungo tutti gli anni 70. E ancora oggi queste poesie sono molto attuali e ci parlano di una condizione che è quella carceraria che purtroppo resta immutata. L'importanza della poesia di Sante fu riconosciuta oltre che proprio dal movimento esterno che la pubblicava su Lotta Continua e dai prigionieri che in quelle poesie si riconoscevano. Fu riconosciuta anche, ad esempio, da Primo Levi che negli anni 70 ebbe un carteggio con Sante e anche dal poeta Jack Hirschman che decise di tradurre Sante portandolo negli Stati Uniti. Insomma, noi crediamo che quello che Sante ha scritto e quello che Sante ha fatto abbiano ancora un valore nel presente. Ad esempio, negli ultimi anni Sante si era molto speso contro il 41 bis, che sappiamo essere un tema ancora molto caldo e Alfredo Cospito, insomma, l'ha dimostrato a tutti. Quindi c'è ancora tanto da imparare e da leggere da Sante. Sabato 11 maggio è in programma Poesia itinerante. Che cos'è? Poesia itinerante è un modo di far trasbordare la poesia nelle città, cioè farlo uscire dai luoghi consueti, che in genere sono luoghi chiusi, e farlo diventare un po' un cammino in cui in alcuni luoghi che per noi sono rappresentativi e simbolici della città ci si riunisce insieme per leggere delle poesie. Ci saranno delle poesie di sante, ma non solo di sante, quindi si partirà dal carcere di San Giovanni in Monte, dove ci fu una celebre evasione dei partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, e si arriverà invece al luogo della detenzione dell'oggi, quello nella nostra città, quindi il carcere minorile del Pratello. E il passaggio al Sacrario dei Partigiani di Piazza Nettuno rappresenta proprio quel legame con la Resistenza che Sante ha sempre sentito, ma è riuscito anche a trasmettere alle nuove generazioni. Quindi è un modo di far uscire la poesia fuori dai libri e fuori dai luoghi chiusi, solitamente dedicati alla poesia.